lieve della meta, fra i boschi di bambù, più leggero il vento canta. Chissà che terra sei, fra gli anemoni e le ninfee, e mi nutrirai di celesti mare dei giorni tuoi. Che respiro di te, lampi di sole, mi innamorai del silenzio che in te, tu sei il fiore del mondo e di un'altra vita non ho, tu sei il fiore più bello del mondo. Per me sei tu, ogni brivido in me, le vertigini che io non provai. Oh,